y yo, y en el lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ve lo avevo promesso una settimana fa che questo venerdì saremmo tornati a parlare di privacy con il professor Francesco Pizzetti, garante che abbiamo qua in studio. Buongiorno professore. Buongiorno. Grazie di essere tornato, ma eravamo stati talmente pressati dalle domande, questo sembra un problema veramente importante, sentito, anche se non pensavamo fino a questo punto, pensavamo che la generazione precipua dei digitali pervenuti e non nativi come sono le giovanissime generazioni non si ponesse il problema, invece il problema è molto sentito a vari livelli. Ma oggi vorremmo circoscrivere l'argomento, perché sennò generalizziamo sempre e non diamo risposte in fondo esatte. Il tema direi oggi è adolescenti incontrollabili sotto controllo. Ci sono arrivate durante la settimana, sembra che un problema grosso sia quello del controllo dei figli. È sempre stato un problema per l'umanità, ma oggi con l'avvento di mezzi digitali individuali, come appunto i telefoni cellulari, l'accesso alla rete, da una parte aumentano le situazioni di rischio e di ansia da parte dei genitori, d'altra parte aumentano anche le possibilità di controllare. Io avevo lanciato l'argomento sul social network Facebook ieri sera, che sarà anche uno dei temi di cui parleremo oggi, perché io anziano, quasi sessantenne, posso andarci tranquillamente, un ragazzo un po' sprovvisto di strumenti di elaborazione del linguaggio altrui potrebbe rimanerne addirittura affascinato, ma è giusto che questo accada, importante che sappia come uscirne. Mi scrive Maria Cristina fa un passo avanti rispetto a questa mia riflessione. Dice: l'avvento del digitale, in particolare dei cellulari, ha modificato i rapporti tra genitori e figli. La possibilità di entrare in contatto sempre o quasi ha riallacciato un cordone ombelicale, modificando il naturale distacco che si determina dall'adolescenza in poi. È una nuova modalità di rapporto tra genitori, pura la possibilità di sapere in ogni momento se hanno bisogno di te, ma anche tra figli e genitori, la possibilità di chiamarti per ogni piccola cosa, li fa restare un po' bambini. Altro invece è il controllo che ogni genitore può cercare, non sempre con successo, di realizzare attraverso la rete. Leggere la loro pagina su Facebook, i blog, guardare i messaggi sul telefonino, insomma avere una possibilità ulteriore di gettare l'occhio genitoriale il più possibile sulla vita dei propri figli. Il numero verde è 800 24 00 24, cominciate a chiamare, vi diamo subito un piccolissimo assaggio. Si è molto parlato di YouTube, della possibilità di pubblicare facilmente in rete alcuni video autoprodotti. Tutti i nostri ragazzi hanno dei telefoni cellulari con telecamera incorporata, sappiamo che la usano come la loro appendice visionaria, la macchina che trasforma in momenti epici alcuni loro eventi quotidiani. Sappiamo che un certo giornalismo sensazionalistico fa di questi video, in assenza di altri stimoli, è grande argomento di discussione, anche perché molte volte si vedono cose non proprio piacevoli. Beh, abbiamo visto che su YouTube le pubblicazioni adolescenziali seguono dei precisi filoni. Ne abbiamo preso uno a caso, perché abbiamo visto anche stamattina le notizie sull'abbassamento dell'età minima della fruizione perniciosa di alcolici in minorenni. Da 9 anni già cominciano a farsi di brutto di alcol, dalle nostre parti, mica in paesi tanto lontani. Beh, abbiamo cercato ubriaco ed ubriaca nel motore di ricerca, è venuto fuori questo. Parla piano, vedi. Ah, raga, questo fa come dico ormai. Sono sempre giocato. Ho giocato, l'hai capito? Ormai siamo giocato, faccio in primo piano. Ecco, il primo piano del lupo. Ma hai capito, sono sempre giocato ormai. Oggi è il 28 giugno 2007, siamo a casa degli zii, con tutti gli zii. Voi che vedrete questo video, amici della Cami, chi mi vorrà conoscere, io sono molto disponibile. Io sono una brava ragazza, adesso sono un po' andata a parte dei scherzi, cioè quello che ho detto 2 secondi fa non è vero. Però potrei conoscere qualche ragazzo, sarei molto volenterosa, diciamo. Ecco. non mi scandalizzerei molto se queste fossero normali chiacchiere fatte tra amici e tra amiche. Siamo tutti stati giovani, siamo tutti tornati a casa ubriachi, abbiamo tutti nascosto i segni del vomito, il segno del bagordo, ma c'è un'accezione. Ragazzi, ormai è una sorta di format, funziona più o meno così: si è 4-5 amici, alla fine della serata di bisboccia c'è uno più cotto degli altri e diventa l'oggetto della ripresa degli altri. Di solito viene steso su un divano, a volte spogliato, gli chiudono il naso e vedono se respira bene, gli fanno le cose peggiori, avete sentito, ha detto, molte volte il soggetto non si muove nemmeno. Poi delle che fanno le civette, le fanno davanti alla loro telecamerina portatile, al loro telefonino, è un gioco come tanti, però pubblicano tutto per vederlo, non sanno che questa traccia della loro piccola e anche innocente trasgressione giovanile rimane indelebile nella loro storia. 80024 0024. Cosa hai bevuto oggi? Ma sai che non mi ricordo? Allora, io mi ricordo. Non mi ricordo di avere con lui. Lui ha attaccato a lui un bacio. Adesso non mi ricordo niente. Non mi ricordo quando mi ha guardato fuori, che se non ho finito male, cammina dritta perché se non si arrestano. Allora, che magia. Mettilo dritto. Chiudi la bocca. Oh, lasci la bocca. Eccolo, vai farlo. È automatico. Ma non è più entrare, che raga. No, sette, sono tornata la sette. Una ragazzina viene presa fuori dalla discoteca, racconta quello che ha fatto con un ragazzo, spacconeggia, sbulletteggia, probabilmente non è nemmeno vero, però rimane, l'abbiamo vista noi, può vederla chiunque. Un altro ragazzo esteso, cotto, gli infilano una penna nell'orecchio, gli chiudono il naso e vedono che in automatico apre la bocca, insomma diventa un oggetto di studio anatomico sugli effetti dell'alcolismo. 800 24 00 24. Professor Pizzetti, le ho dato un assaggio di cose che lei ben conosce. Questi ragazzi si rendono conto, secondo lei, che quello che noi abbiamo fatto sentire questa mattina alla radio un domani potrebbe essere visto da qualcuno che magari giudica il loro curriculum di studi? Ma probabilmente no, e se anche se ne rendono conto, purtroppo non sono del tutto consapevoli di cosa significa. È un po' il problema della giovane età che fa vivere proprio in un'altra dimensione dello spazio e del tempo. Il giovane si sente immortale e pensa che ha un futuro immenso davanti a sé, vive il presente in attesa del futuro, ma il senso della concretezza, del tempo che passa, del suo mutamento, credo non sia presente come nelle altre fasi della vita. È il problema più grosso di questi social network. Noi siamo molto preoccupati, ma nell'interesse dei giovani, non perché vogliamo limitare la libertà della rete. C'è stato un grosso lavoro da parte delle autorità garanti, proprio di studio, di analisi. Abbiamo pubblicato una raccomandazione adesso a Strasburgo, la prossima settimana la presenteremo a livello internazionale, credo che sarà approvata, e ha come obiettivo principale l'informazione, cominciare a spiegare e a far capire e a informare, ma informare nel senso vero del termine, che la comunità è un termine ingannevole perché non è un insieme di amici, ma è praticamente un accesso a tutto il mondo, che è il concetto di amico in rete cambia di natura perché non c'è un rapporto personale che sta alla base di questo concetto, e poi raccomandazioni agli utenti proprio di conoscere e rappresentarsi il futuro. Insomma, il problema è che la memoria collettiva è una realtà difficile da tenere presente. Ciascuno di noi in fondo dovrebbe avere chiaro che è responsabile di tutto quello che fa per tutta la vita, e poi invece chiede il diritto all'oblio, chiede la cancellazione dei suoi comportamenti precedenti. C'è qualche cosa di difficile da definire. Infine la domanda, in Inghilterra purtroppo sta succedendo in modo significativo, ma comprensibile, la rete è aperta a community, aperta a tutti, i datori di lavoro vanno in rete, di fronte a una domanda di assunzione cercano di profilare il candidato anche vedendo che cosa di lui si sa nella community. Ma anche in Italia, io qua ho un articolo del Corriere della Sera del 24 novembre 2007, c'è una selezionatrice di manager, dice: prima di assumere comunque io vado sempre fare un giro in rete a vedere qualche traccia di questa persona, quindi mi sembra normale. È assolutamente vero, credo che ormai alla rete, alle community, ai social network accedano soggetti più diversi anche per motivi professionali. Nella nostra raccomandazione si mette l'accento appunto sui cacciatori di testa, sui datori di lavoro che hanno domande di assunzione, ovviamente come sempre anche sulle strutture di sicurezza e di controllo. E di tutto questo i ragazzi non sono consapevoli, purtroppo. È la dimensione del tempo che non è così uguale nell'età giovanile. E il principio di responsabilità per loro si esaurisce nella dimensione dell'età in cui vivono. Quindi tutto è uno scherzo, quindi è un autorappresentarsi, un voler esistere in qualche modo anche attraverso la trasgressione. Ci siamo passati tutti. Il problema però è che le notizie in rete restano per un tempo molto più lungo di quanto noi immaginiamo. Senta, professor Pizzetti, sento un rumore sotto, forse c'è un telefonino acceso in studio, bisogna stare attenti, sennò ci controllano, oltre al fatto che noi dobbiamo controllare o garantire la prioritezza agli altri. Io però vorrei fare attenzione a una cosa. Io sarei accusato di contraddizione radicale se sposassi al 100% la tesi del terrorismo digitale. Io sono 15 anni che tutti i miei sensori di curiosità verso il mondo passano attraverso strumenti informatici e attraverso la rete internet. Io però ho notato che in realtà questa ignoranza e inconsapevolezza di cui stiamo parlando sul fattore tempo, il fatto che sia indelebile molte volte la traccia digitale, non è soltanto riservata al mondo giovanile, anzi i ragazzi hanno probabilmente molta più dimestichezza nello sgusciare, nello sfuggire, nel non lasciare tracce. Su Facebook utenti adulti, signore 45enni, 50enni, ancora attribuiscono per esempio al termine amico un senso quasi affettivo, emotivo, ma come, tu sei mio amico, devo capire se sei mio amico, non sei mio amico, posso essere tuo amico, grazie di avermi preso amico, non sapendo che in realtà tra una connessione e una relazione esistono degli abissi, come ci insegna Bauman. Ma volevo farle notare anche un altro tipo di polemica che è nata in questo momento, di cui sto seguendo il fatto. È apparso uno spot del Moige che mette in guardia i genitori contro il commercio che farebbero alcuni maniaci sessuali che contattano minorenni e chiedono foto pornografiche o lascive in cambio di ricariche al telefonino. Molti dicono che è bella, una bella campagna, giusta, molti genitori tra secolo non sapevamo questa cosa, ma una signora dice con grande intelligenza, dice: ma vi rendete conto che il problema sta anche altrove? Genitori che non si rendono conto che un figlio ha un telefonino sempre carico in tasca e adesso cascano dalle nuvole perché immaginano chissà quale turpitudine ci sia dietro questa ricarica. Non ci dovrebbe essere magari un passo indietro prima di cominciare a spiegare bene tutti i meandri degli accessi digitali, capire un po' qual è il rapporto reale che esiste oggi nelle famiglie, nel controllo, nel rapporto di fiducia tra genitori e figli? Ma per me la questione di fondo è quella di cui parlavamo la settimana scorsa. Le persone in età più avanzata o più matura, da genitori ai nonni, hanno vissuto e vivono in un'altra dimensione, non hanno la capacità di capire veramente che cosa sono queste nuove tecnologie. E quindi il dialogo è difficile, non solo perché c'è la differenza generazionale che è sempre esistita, ma perché vivono due mondi diversi. I non giovani non riescono a capire esattamente che cos'è la rete, appunto il concetto di amico è nella dimensione della realtà reale, per cui l'amico è uno con cui un rapporto più intimo. Non riescono a capire che sulle social network sono un luogo pubblico, sono come in piazza, non come nella casa privata. Sì, sono anche grandi macchine emotive, devo dire che molte persone rimangono anche affascinate, turbate dalla facilità, dalla confidenza, dall'intimità che si raggiunge in un rapporto virtuale. Bisogna anche considerare che le macchine aumentano e amplificano anche cose che noi abbiamo dentro. Non solo, ma riescono anche a distorcere la comunicazione interpersonale, perché io comunico per scritto e non a voce, mi coinvolgo in un modo diverso, certe volte mi apro di più di quanto farei a voce, ma magari immagino che tanto io non sono visto, e quindi incentiva l'aprirsi, il mettersi in pubblico, lo scambiare le proprie sensazioni, sempre nella convinzione che sia solo un fatto che dura quell'istante della comunicazione, non che resta nel tempo. Sentiamo cosa ha da dire Davide. Davide, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Nicoletti, innanzitutto volevo ringraziarle per la possibilità di parlare e volevo fare un intervento sui cellulari. Innanzitutto sicuramente lei sarà d'accordo con me sul lei ha 22 anni, quindi fa parte diciamo quasi del campione dei giovani che stiamo analizzando. Sì, sì, tra l'altro io sono iscritto su Facebook, partecipo al gruppo suo su Facebook. Sì, io sto ovunque, quindi grazie, ma figuriamoci. Però, comunque, prego, no, dica lei, deve dire la sua. No, stavo parlando prima sul fatto che il cellulare, sul fatto, lei sarà sicuramente d'accordo con me che il cellulare ormai è diventato un po' oltre come segno distintivo sociale, perché comunque... Ma quello non lo è più ormai, ce l'hanno anche i gattini, c'ho amiche... probabilmente con qualche problema che danno un cellulare al cane, ogni tanto telefonano e vogliono sentire il cane che guarisce dal telefono, quindi ormai mi sembra che lo status è passato. No, ma comunque io sto commentando, non so, dall'università agli amici, comunque c'è sempre quello che si fa più bello perché ha il cellulare di ultima generazione, che perché comunque il padre gliel'ha potuto comprare, cose del genere, intendevo quello. Sul fatto che comunque il cellulare è diventato un segno sociale, cioè i più belli ce l'hanno le persone comunque più facoltose. Sì, ma torniamo al problema, lei ha 22 anni, lei sì. Probabilmente ancora ha legami con la sua famiglia, a meno che non sia un'eccezione che già è autonoma. Sì, sì, sì, sì, vivo tranquillamente con la mia famiglia. Quindi, diciamo, quello che accennava l'ascoltatrice su Facebook, che da un certo punto di vista è uno strumento di controllo, ma uno strumento che... tiene ancora più saldo il legame fra famiglia e figlio, è vero? È verissimo. A me mi è capitato un caso l'altro giorno, cioè io sono rimasto a piedi con la macchina, non c'era nessun meccanico, comunque se non avessi voluto il cellulare avrei magari imparato da solo a cambiare una gomma, a arrangiarmela da solo, invece con un semplice gesto ho chiamato mio padre e è venuto lui a cambiarmela. Lei si rende disponibile o si rendeva magari qualche anno fa a dare possibilità ai suoi genitori di controllarla o di seguirla attraverso, non so, i messaggi memorizzati nel suo telefono? No, perché comunque credo che la vita è la mia e comunque i miei genitori possono, non sono autorizzati a entrare in quanto nei miei messaggi, in quello che io dico con i miei amici, però il cellulare è diventato troppo un sistema per rendere la vita troppo facile. I ragazzi dovrebbero capire che a volte bisognerebbe imparare a cavarsela da soli. Ho capito, ma tornare indietro mi sembra un po' difficoltoso a questo punto. L'importante è forse farebbe crescere i ragazzi, forse bisognerebbe un po' cambiare la mentalità e comunque cercare di far capire che anche ai genitori, che se anche a volte i figli si trovano nella difficoltà, di lasciarli nella difficoltà, non perché loro hanno un cellulare, di chiamarli e di comunque di ossessionarli con milioni di chiamate per sapere come e dove sono. Sentiamo Franco cosa ha da dire invece. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è contrario a YouTube? Io sono con YouTube. Sono su YouTube. Niente, dicevo appunto che sono contrario e dico ai ragazzi di stare attenti perché ho avuto un'esperienza da giovane che adesso mi viene i brividi di sapere che potrei essere su YouTube, insomma, con quei filmati là. I brividi, ma se le capita mai di pubblicare un suo filmato, poi quello lì rimane. Sì, io ho pubblicato filmati che nessuno va a guardare, nessuno va a commentare, perché ho messo i miei figli praticamente, ma sono immagini innocenti e sono consapevole questo poi mi interessa molto. Una cosa che ancora non ho mai capito io è chi pubblica le foto con i figli e le mette in rete. Ma perché lo fate? Lo facciamo perché secondo me c'è un po' di vanità. Sì, ma sono bambini, che bisogno c'è di esporli? Professor Pizzetti, guardi, su Facebook potrei aprirle 100 pagine con famiglie felici, con i figli al mare, in montagna, che li fanno vedere come fossero i pupetti della Araceli. Ma qua vedo un comportamento non legato a fasce giovanili, sono adulti questi. Forse che non lo capiscono. Ma perché pensano di pubblicare le foto come quando se le portano nel portafoglio e le fanno vedere agli amici che incontrano sul lavoro o in una gita al mare? Non, è la dimensione del fenomeno che deve essere ancora capita. Senta, però io non credo che torniamo indietro. Sì, siccome ci chiedono la linea e dobbiamo lasciarla per l'informazione della borsa, 800 24 00 24, facciamo il passo successivo e vediamo quali sono gli strumenti di consapevolezza di questo perdurare nel tempo di un'immagine pubblicata in rete e gli strumenti di controllo che molti genitori mettono in atto o vorrebbero mettere in atto sui figli, non sapendo che in realtà forse i primi ad essere controllati dovrebbero essere proprio loro. 800 24 00 24, stiamo parlando di privacy, abbiamo in studio il professor Francesco Pizzetti, garante per la protezione dei dati personali. Il tema è il controllo dei nostri ragazzi. I nostri ragazzi sono controllati dai genitori attraverso le protesi elettroniche che rappresentano un cordone ombelicale indissolubile, ma allo stesso tempo sono sottoposti a mille rischi. Ma stiamo vedendo che non soltanto i ragazzi sarebbero da controllare o da istruire sull'uso di queste meravigliose macchine di relazione che sono i social network, ad esempio. Molti chiedono cosa sia un social network. Immaginate un'area in rete, un posto in rete dove uno va, mette il suo profilo, la sua carta d'identità, la sua foto, e chi è, cosa fa, cosa gli piace fare, cerca amici. Ogni amico porta anche il bagaglio dei propri amici, quindi uno se ha 10 amici in teoria potrebbe averne anche 1000, perché ogni amico gli porta 10 amici. Cosa fanno gli amici tra di loro? Si scambiano impressioni sulla giornata, cosa fai oggi, cosa fai domani, si sentono, chattano, si raccontano, si incontrano, insomma diventa un grande osservatorio dell'umanità. Abbiamo al telefono Stefano. Stefano, buongiorno. Buongiorno, ecco. A lei, complimenti per la trasmissione. Lei ha un problema che vorrebbe sottoporre al garante, poi cominciamo a dare qualche risposta, qualche dato soprattutto su quello di cui stiamo parlando, così facciamo un po' di servizio. Allora, qual è il momento, l'argomento di contrasto fra lei e sua moglie in questo momento? Allora, io e mia moglie stiamo discutendo serenamente, comunque ci stiamo confrontando sulla questione Facebook, nel senso che lei si è iscritta da pochi giorni ed è subito entrata in questa realtà cercando vecchi amici, comunicando con persone che era un po' che non sentiva. Anche nuovi amici si cerca. Anche nuovi amici probabilmente. E adesso ci stiamo discutendo perché lei vuole mettere sulla sua pagina, sul suo profilo, anche alcune foto di nostro figlio piccolo. Ma perché ce le vuole mettere? Ecco, non lo so, perché le ho chiesto e lei mi ha detto che altri suoi amici, altre persone con cui è entrata in contatto hanno messo le foto dei pargoli e io non sono d'accordo, nel senso che io non ho una pagina su Facebook, non ho intenzione di metterla. Ma qual è la gara? Chi ce l'ha più belli, ce l'ha più carini? Ma probabilmente sì, secondo me nostro figlio è bello, probabilmente. Sì, ma porti a giardinetti e faccia schiattare le altre mamme, non lo so. Esatto, esatto, ci stiamo confrontando, non siamo in contrasto, abbiamo idee diverse. Io le ho detto che essendo al 50% figlio mio, non voglio che lei metta delle foto del bambino e ne stiamo discutendo da diversi giorni. Lei pone una questione, secondo me, proprio di diritto. Professor Pizzetti, resti in ascolto. Ma dal punto di vista del diritto, effettivamente l'educazione dei figli deve essere decisa in modo congiunto dai due coniugi. Qui siamo di fronte a una estensione, un'accezione particolare. Sarebbe interessante una sentenza che affrontasse a pieno e risolvesse la questione. Io vorrei, quindi non è un modo per uscire dalla domanda, ma perché è un fatto incerto, tendenzialmente se occorre l'accordo davanti agli avvocati, professor Pizzetti, diventa motivo di contrasto forte. Direi che vale anche la pena una riflessione, quale foto si mette del figlio, cioè il rischio delle foto messe in rete è altissimo se è una foto che può attrarre l'interesse dei pedofili, cioè la foto del bambino nudo, la foto del bambino in un atteggiamento non protetto. Non esagererei nella demonizzazione, nello stesso tempo non esagererei nella semplificazione. È una realtà molto complessa della quale bisogna avere una consapevolezza precisa. Una foto di un bambino che è una valutazione che prima di tutto dovrebbe fare la madre e il padre, se può esserci un uso improprio di questa foto che non sia semplicemente ammirare il bambino. E in ogni caso credo che l'accordo di entrambi i genitori sia più che giustificato, ha ragione mi sembra il nostro interlocutore, è una decisione che riguarda il figlio che è un minore, va presa almeno consensualmente da parte di entrambi i coniugi. Io vorrei però dare qualche dato che ci consente di capire il fenomeno. pensando che il fenomeno che ci interessa, poi come questo fenomeno gioca nella vita politica, nel dibattito pubblico, nei rapporti interpersonali, nell'intrattenimento, è tutta una questione da esaminare caso per settore. Noi sostanzialmente, secondo un rapporto del febbraio del 2008, in Italia l'86,4% della popolazione possiede un cellulare, il 77% degli uomini e il 75% delle donne rispetto al 100 dei possessori. Raggiunge tra i 14 e i 29 anni il 97% usa il cellulare. Ci dice che effettivamente il fenomeno è diventato ormai così esteso che non c'è giovane senza cellulare. Sull'utilità dei genitori di usare il cellulare per controllare i ragazzi, le opinioni dei genitori sembrerebbero essere divergenti. Una larga parte lo ritiene inutile, ritiene cioè che poi alla fine non è così efficace. Un'altra parte invece, probabilmente la parte più ansiosa, lo ritiene importante per sapere in continuazione dove si trovano i figli e cosa stanno facendo. La maggior parte delle utenze sono, la maggior parte nel senso il maggior numero in percentuale è collocato nel centro Italia, questo è singolare come dato. In ogni caso i giovani italiani usano il cellulare in misura maggiore di tutti gli altri giovani europei, il 96,5% in Italia, 97% praticamente, in Germania il 90%, in Gran Bretagna l'84%, in Spagna l'84%, in Francia addirittura soltanto il 74%. Quindi fa parte ormai, quasi un organo aggiuntivo. È sempre stato così, dimostra anche l'influenza del familismo, l'ansia delle madri, c'è una percentuale rispetto alla Francia del 30% maggiore. Su internet ancora più interessante, tra i 14 e i 29 anni ormai l'83% dei giovani è collocato in internet e in misura significativa ne fanno un uso abituale. Abbiamo un dato. Questo per me è un bene, però questo è un dato che vedrei con positività. Assolutamente sì, ma deve dirci che per i giovani internet è una realtà completamente diversa che da quella che è per i non giovani. Non è uno strumento di lavoro, non è uno strumento per facilitare l'acquisizione delle informazioni, è un'altra dimensione permanente della loro vita. Il computer normalmente rimane acceso e collegato su internet per tutta la durata della giornata in cui il ragazzo è vicino a un computer. Sa, professore, accade anche a me questo. Sì, ma è interessantissimo, noi dobbiamo considerarlo con grande interesse. Il 73% dei giovani tra i 13 e i 17 anni è iscritto a una social network, probabilmente anche a più di una. Il 66,7% lo usa regolarmente questa social network, è aperto un proprio profilo web. Tra l'altro è interessante che sono più le ragazze che i ragazzi, quindi ci dice che non siamo in presenza di una situazione marginale, è un'altra dimensione della vita che per i giovani fino ai 24 anni è ormai una parte essenziale. Per loro realtà virtuale e realtà reale sono connesse insieme, per cui si tratta dentro questa vicenda di ragionare consapevolmente. Loro ragioneranno meglio di noi. Il problema è l'età giovane, cioè io non sono minimamente preoccupato della loro capacità di conoscere la rete, sono preoccupato soltanto del fatto che è la prima generazione che conosce la rete e non ha ancora l'esperienza dell'intera vita. Cioè loro sono a 24 anni, non sanno cosa penseranno quando ne avranno 40 o 60, e però conoscono tutto della tecnologia meno della vita. Quelli che sono più avanti negli anni conoscono di più della vita ma non capiscono questa tecnologia. Il dialogo fra le generazioni in questo momento è sempre stato difficile, ma è aggravato da questa particolarità. C'è un meraviglioso e variegato presente che vivono molto più profondamente dei loro genitori, però non hanno la percezione che questo presente, a differenza dei nostri, rimane impresso e memorizzato da qualche parte. Ma io credo che, considero le giovani generazioni normalmente particolarmente smart, particolarmente intelligenti nel capire le cose, quindi penso che ne abbiano la consapevolezza, ma una cosa è immaginarsi a 20 anni che rimarrà sempre. Qual è il sempre per il ventenne? Una cosa è immaginarsi a 60 anni che il sempre significa che io lì ho la mia intera vita conoscibile anche al di là di quanto io ormai vorrei che fosse conosciuta. Questo, anche il principio di responsabilità cambia. Noi in fondo siamo generazioni che hanno vissuto sull'idea che molto del nostro esperienza giovanile verrà dimenticato. Si rappresentano loro che vivono in una realtà in cui ad oggi tutto ci dice che non verrà dimenticato. Io sono andato a casa dei miei genitori giorni fa, cercavo delle mie foto adolescenziali perché devo fare un articolo, ho trovato una misera scatola da scarpe, sono state 15 foto di 15 anni di vita. Questa era la traccia visiva, poi tutte sfocate senza negativi, quindi destinate alla morte. Però volevo, visto abbiamo fatto una promessa al nostro pubblico di dare vari punti, fare un passo avanti. Le tecnologie che rappresentano un motivo di ansia per i genitori rappresentano da un altro punto di vista anche una sicurezza. E non soltanto le tecnologie di tipo informatico. I genitori vorrebbero sapere tutto dei figli e fanno di tutto per sapere il più possibile. Il prodotto Test Antidroga è uno strumento concreto per tutti coloro che hanno dei dubbi sui propri familiari. Da oggi è possibile eseguire un test antidroga per cocaina, marijuana, eroina, anfetamine, cannabis senza andare in un laboratorio di analisi. Quindi nell'assoluta tranquillità della propria casa e senza alcuna intromissione nella privacy familiare. Droga test urina. Rileva tramite urina la presenza di una singola droga. Le sostanze rilevabili sono cocaina, marijuana, oppiacei, ecstasy, benzodiazepina, anfetamina. Prezzo 12 euro. Ecco, siamo arrivati un po' all'argomento, avevamo già lambito l'altra volta. I genitori, per sapere tutto dei figli, fanno di tutto. Da una parte mettono le microspie, addirittura l'altra volta qualcuno suggerì il microchip sotto pelle, ma i test antidroga che sono così facilmente vendibili in rete rappresentano un rischio, un pericolo o un reato nell'uso nei confronti dei figli? Beh, vede, qui il problema delicato è che figli è un termine generico e minore è anche un termine generico, è da 0 a 18 anni di età, quindi per le autorità garanti il problema è complicato. Dai 14 ai 18 anni evidentemente non li possiamo considerare persone che non sono in grado di esprimere un consenso informato, quindi allora si può usare, no, e quindi prevale il fatto che deve essere rispettata la loro dignità di persona. Un test su dati sensibili anche da parte del genitore dovrebbe essere operato col loro consenso o informandoli. Diverso il discorso sui bambini più piccoli, è tutta una questione delicata anche per il diritto, perché io poi mi chiedo certe volte se davvero i genitori vogliano sapere tutto, perché francamente capire che un figlio sta passando un momento delicato e che magari fa uso di stupefacenti lo si può fare anche senza ricorrere alla pubblicità che fornisce il test semplice. Qui siamo dentro il problema tradizionale del rapporto fra generazioni. Oggi c'è qualche strumento in più che però, se male usato, rischia di essere più invasivo e creare ancora maggiore muro fra generazioni. Buonasera, sono Franco Ponzi, presidente del gruppo Ponzi Investigazioni. Un 40% della nostra attività è occupata anche da preoccupazioni, indagini private che rientrano nella sfera familiare. La preoccupazione principale che ultimamente si sta sviluppando, visto anche il proliferare delle sostanze stupefacenti, è sempre quella. La preoccupazione primaria è che il ragazzo abbia iniziato a prendere vizi di droghe leggere o pesanti che siano. In seconda battuta, alcuni genitori ci assoldano anche per vedere se bevono, se fumano, se usano trasmodare nel bere alcolici. Purtroppo nei giovani 14-15 anni iniziano già a bere superalcolici. Giustamente mi dice una nostra ascoltatrice che ci sta seguendo proprio da Facebook: leggete bene le istruzioni del social network, voi potete mettere anche le foto visibili soltanto a chi volete voi, anche soltanto a una persona. Anche se poi comunque affidare un oggetto digitale alla rete significa sempre perderne il controllo in ogni momento, che l'unica persona che la guarda potrebbe copiarla, incollarla e mandarla a chissà chi. 800240024, abbiamo fatto ascoltare un investigatore privato che dice che il 40% del suo giro d'affari è composto da genitori che vogliono controllare i figli. Per quanto riguarda problematiche, ultimamente abbiamo visto ragazzine che si prostituivano per la ricarica del telefonino, abbiamo trovato ragazzi che si facevano 8-9 spinelli a sera e più l'ultimo, un ragazzo di 16 anni che oltre a farsi 8-9 spinelli a sera, l'abbiamo notato che spesso tirava anche di coca. Abbiamo al telefono Ciro. Ciro, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo fare una considerazione molto breve. Si faccia una domanda, così le rispondiamo. Sì, io da genitore penso che sia abbastanza assurdo che si debba chiedere il consenso a un proprio figlio per controllare quello che fa, visto tutto quello che... Un figlio maggiorenne sta parlando o minorenne? No, perché mi è sembrato che il signore lì, garante della privacy, distingueva dopo i 14 anni. E mi sembra un pochettino assurdo, con tutto quello che sentiamo e che vediamo giorno dopo giorno accadere, mi sembra che sia assurdo che un genitore debba chiedere il consenso, mentre è giusto che lo segua e che capisca anche i segnali di quello che sta facendo. Mi sembra aver capito, ma li faccio rispondere direttamente a questo Pizzetti, che diceva in età minore, naturalmente il genitore ha la patria potestà, però da 14 anni a 18 anni, in un rapporto sano e normale, uno dovrebbe dire al ragazzino: ti faccio il test antidroga, no? Metterglielo nella minestrina o la mattina correre con la cartina al tornasole mentre fa la pipì. Comunque, sentiamo il professor Pizzetti. Beh, naturalmente io, al di là della privacy, lo ritengo innanzitutto un problema di corretto rapporto con i figli. Con un ragazzo di 16, 17, 18 anni, controllarlo a sua insaputa è il mezzo pedagogico più utile per avere un rapporto franco, o è più utile chiedere il loro consenso, per esempio informarli che attraverso il telefonino può esserci anche la possibilità per il genitore di avere informazioni su dove sono per proteggerli. È tutto un tema molto complicato questo, fra l'altro anche i sistemi di localizzazione vanno tutti pensati. Per esempio, io credo che sia ragionevole immaginare che un braccialettino messo alla caviglia o al polso di un bambino sulla spiaggia possa essere utile per evitare la solita radio del bagno che dice: alba la cassa, c'è un bambino che si è perso, si aspettano i genitori. Però ragioniamo anche sugli effetti che possono esserci al contrario. Se io, per esempio, voglio localizzare mio figlio con un chip sottopelle, posso rischiare che un'organizzazione malavitosa lo possa in qualche modo localizzare per finalità del tutto diverse da quelle della protezione. È una consapevolezza complessiva del fenomeno che va maturata. Voglio dire, che gli investigatori privati lavorino sui problemi della famiglia è noto. Probabilmente l'altro 60% o l'altro 40% sono i rapporti fra coniugi, però il problema maggiore sarebbe evitare di dover ricorrere a un investigatore per controllare il proprio coniuge. Voglio anche dire che sul uso della rete a fini di pedofilia dobbiamo fare un ragionamento serio, perché da un lato noi abbiamo un dato di queste indagini sociologiche che ci dice che il 69% dei giovani vede tra i maggiori rischi della rete quello di essere molestato dai coetanei. Gli atti di bullismo. Gli atti di bullismo, che sono difficilmente qualificabili come pedofilia, perché il responsabile è anche colui che li compie, perché un minore è anche colui che li compie. Poi c'è l'uso, invece, naturalmente, di pedofilia in internet, quella compiuta dagli adulti, che è aumentato in modo spaventoso. Non 131%. Pizzetti, lo dico per esperienza personale, quanti genitori sanno che una parte precipua degli sms che ricevono i loro figli a casa non sono di ammiratori, di compagni, di fidanzati, ma sono di bulli che lo fanno per una precisa volontà di tartassare magari un ragazzo più debole o più sensibile degli altri. Sì, ma io dico sempre che già nel libro Cuore c'era il bullismo, no? C'era Franti che si divertiva a tormentare il muratorino e c'era Garrone che lo difendeva. Più bullismo di quello, cosa possiamo individuare? Di nuovo è la realtà virtuale che cambia un po' la dimensione del fenomeno. Però il problema è: una società non è che se la cava dicendo controllo, si può anche poi controllare, ma prima di tutto c'è un'etica complessiva da ricostruire. Voglio dire, le ragazzine che mandano foto delle loro parti più intime in cambio di una ricarica, interpellate dalla polizia postale con l'assistenza di tutti gli psicologi, con tutte le cautele necessarie, hanno risposto: ma voi che ve ne importa? Perché quale sarebbe il reato? Se a me non me ne importa niente di mandare una fotografia di me nuda in cambio della ricarica, voi che c'entrate? Ovviamente è assurdo il ragionamento, ma dice come si sta cambiando, logorando la dimensione stessa dei problemi. Noi non possiamo pensare che controllandoli risolviamo quel problema che non abbiamo affrontato, che è un'altra cosa, parlarci, educarli, anche crescere insieme. Quindi anche... non può essere soltanto una disciplina a risolvere il problema, non può essere soltanto una domanda tipo: è giusto o non è giusto? giusto, faccio bene o faccio male, è reato, posso farlo, ma diciamo che è un po' più complesso. Esempio, una ragazza giovane, come abbiamo sentito, vale la pena di ragionare, tu mandi questa fotografia, ma fra 20 anni, quando tuo figlio dovesse vedere la foto di te ragazzina, saresti contenta? Ragionaci, pensaci, cerca di diventare responsabile, questo devono fare i genitori, poi se vogliono controllino anche, se vogliono cavarsela mandando gli investigatori, sanno di operare ai limiti della legalità, ma mi interessa di più un discorso di riflessione complessiva su quello che sta succedendo. Professor Pizzetti, il tempo a nostra disposizione è scaduto, la saluto, mi sembra che il problema sia molto più complesso di quello che uno potesse immaginare, soprattutto l'epoca che stiamo vivendo ha delle complessità che l'uomo mai si era posto come problema dall'inizio del genere umano fino ad oggi. Ci sentiamo lunedì. Email melog@radio24.it. Melog va in replica questa sera alle 22:00.